E avete appena ascoltato il gruppo Crudo con Innasanna 2007. Chiamatelo album, chiamatelo mixtape, chiamatelo come cazzo vi pare. Registrato su un paio di laptop con scrause e schede sonore di serie tra Sanna e Brisbane. Tutte le tracce prodotte, arrangiate e miscelate da Bugi, maestro di cerimonie il suddetto Bugi. Hanno partecipato Fombi Auler, ancora viva, il Ruvido, Frattale, Sebastiano Ger, a.k.a. Anthony Bondage, M, a.k.a. Il Demonio, Ciccio, la Sista Bestia, Bobotti, a.k.a. Mario Pinto, Bruto ed Ananazzi, per ragioni di riservatezza, non suonano in questa traccia. Questo è il suono di Boundary Street, West End, Queensland. Sanna fuori zona.